Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Ci sono lo zaino, il diario, l'astuccio, ma anche il grembiulino, l'abbonamento ai mezzi pubblici e poi i quaderni, le penne, i pennarelli, la gomma, il cancellino e infine, la cosa più importante e più cara, i libri. Il primo giorno di scuola è senza dubbio un'emozione per i nostri ragazzi e bambini, certo per qualcuno nel senso dell'entusiasmo, per molti possiamo immaginare un po' di tristezza e rammarico per via della fine delle vacanze. Le emozioni che si trovano a provare le famiglie però sono un po' diverse, in particolare oggi parliamo di quello che si prova: spavento, preoccupazione, disappunto di fronte allo scontrino della spesa dei libri di testo e del corredo scolastico. Prezzi davvero considerevoli e naturalmente sempre in crescita, e poi prezzi del tutto sbilanciati se consideriamo invece quello che è il bilancio delle famiglie, sempre più magro, soprattutto di quelle famiglie che si trovano in difficoltà. Come fare per risparmiare? Come districarsi fra la qualità e il prezzo, i desideri dei più piccoli, i prodotti di marca, la cartoleria di fiducia e la grande distribuzione, ma anche tra il tradizionale libro cartaceo, nuovo o usato, e il futuro che avanza con il sussidiario che presto potrebbe diventare ebook, cioè una versione digitale. Tra l'altro, per chi segue con grande fedeltà il nostro palinsesto avrà sentito stamattina che questo argomento è stato affrontato anche dal nostro Gianluca Nicoletti in Melog. Oggi a Salvador Danaio ne parliamo più complessivamente dei costi e delle scelte in materia di corredo scolastico. Cercheremo di osservare quali sono le tendenze dei prezzi del nostro paese, dandovi anche qualche consiglio, se la spesa non l'avete ancora del tutto completata, su come risparmiare senza rinunciare al meglio per i nostri ragazzi e i nostri cari studenti. Allora, 800 24 00 24, come sempre questo è il numero verde che potete utilizzare per intervenire in diretta e prenotare i vostri interventi. Mi aspetto, come sempre auspico in questa trasmissione che facciamo ricorrentemente ovviamente all'inizio dell'anno scolastico e quindi a settembre, molti interventi di mamme e di papà per raccontarci appunto la loro esperienza. Il primo giorno di scuola si avvicina, allora quanto vi costano? Avete già fatto un bilancio preventivo libri e materiale? Avete già comprato tutto? Quali stratagemmi avete messo in atto per risparmiare? Raccontatecelo, perché noi oggi ci confronteremo con un bel gruppo di ospiti. Daniele Grassucci, responsabile delle relazioni esterne di scuola.net, lo abbiamo già collegato telefonicamente, non c'è ancora. Vabbè, salutiamo intanto Davide Guarneri, presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus. Guarneri, buongiorno. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. E ben ritrovato, ormai lei sa che ha questo appuntamento con noi tutti gli anni, per cui è un punto di riferimento, ma è diventato per Salva Danaio molto importante. Poi abbiamo qui in studio con noi a Salva Danaio, qui a Radio 24, Luciano Mazzone, amministratore delegato di Cliccapromo. Cliccapromo è un motore di ricerca molto noto delle offerte dei supermercati e insieme ad Adiconsum hanno appunto stilato proprio da qualche giorno un prospetto molto interessante su quelle che sono le offerte della grande distribuzione nel corredo scolastico. Ne abbiamo scoperte delle belle. Mazzone, bentornato, buongiorno a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo Lucia Canzi, esperta inchieste per Altro Consumo, perché anche Altro Consumo è andata a caccia di prezzi per quello che riguarda soprattutto i libri di scuola e che cosa succede proprio nell'ambito della grande distribuzione solo ed esclusivamente appunto per i libri scolastici. Canzi, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, ho dato il numero verde per gli interventi in diretta. Grassucci, l'abbiamo recuperata, l'avevo salutata per primo. Eccoci qua, Daniele, buongiorno. Ecco, buongiorno a voi, eccomi qua. Sì, tutto a posto. Allora, ho ricordato agli ascoltatori il numero che possono utilizzare, il numero verde per intervenire in diretta, prenotare gli interventi, raccontarci le loro testimonianze. Vedo già molti ascoltatori che sono pronti e sono molto questa mattina stimolati dall'argomento. Avete anche le altre alternative, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Potete andare anche a commentare il tema del giorno su Facebook, salvadanaio-radio24, ci potete anche scrivere all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. prima di entrare nel vivo di questo argomento, che oggi appunto, come dicevo, è un pungolo assolutamente importante per tutte le famiglie, direi di andare a dare anche un'occhiata alla borsa, perché c'è questa giornata di grande attesa per quanto dirà tra qualche ora Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Aspettiamo questa conferenza stampa delle 14:30. Sui tassi di interesse abbiamo una convinzione un po' più marcata, perché ci sembra che siano quasi tutti convinti che i tassi saranno mantenuti fermi allo 0,75%, a questo livello sono stati portati a luglio, ma qualcuno pensa che oggi a sorpresa Draghi potrebbe anche tagliare ulteriormente. Lo sapremo alle 13:45, intanto la borsa è positiva, va molto bene anche lo spread che è sceso sotto i 400 punti base quest'oggi, abbiamo Milano in rialzo dell'1,27% con acquisti molto forti su tutti i titoli del settore bancario, anche se il miglior titolo adesso è Impregilo, che guadagna il 6%. Il gruppo ha ricevuto dei giudizi positivi da parte di alcune case di investimento e quindi in volata a Milano. Mediobanca più 3,32%, Unicredit più 2,47%, UbiBanca più 2,45%, scivolone di Luxottica meno 7 punti per il gruppo che in avvio crollava dell'8% dopo il collocamento della quota del 7% della società detenuta dal patron Leonardo Del Vecchio attraverso appunto Delfin, che è la holding di riferimento del gruppo, quindi un collocamento di una fetta piuttosto importante della società che viene accolta con questa reazione appunto da parte del mercato. Euro su dollaro a 1,26,10 in questo momento. La borsa la lasciamo, tanto ci ritorneremo nel pomeriggio molto frequentemente, contestualmente appunto alla riunione della BCE, alla conferenza stampa di Draghi. Adesso invece andiamo al tema di oggi. Come vi anticipavo, parliamo del primo giorno di scuola, del corredo scolastico e dei libri. Quanto spenderanno quest'anno le famiglie italiane? Lo sai che dovrai un po' sarò sempre buono? Ne sono contento. Staremo bene insieme. Voglio che tu abbia dalla vita tutto quello che non ho mai avuto. E per prima cosa una solida istruzione. Da domani comincerai ad andare a scuola. Sì, però per andare a scuola mi ci vuole un vestito, sì, e una becciata. Certo. E te i soldi per comprarmeli non ce l'hai. Eh già. Niente scheda questa mattina, abbiamo scelto invece di riprendere una delle scene più famose del film Pinocchio e insomma avete sentito questo confronto tra lui e Geppetto. Lui chiede l'abitino nuovo per andare a scuola, chiede naturalmente anche l'abecedario. Ma che cosa è successo? Mi è partita la sigla. Chiede l'abito nuovo e l'abecedario e naturalmente papà risponde, insomma, devo fare dei sacrifici non indifferente. Davide Guarnieri non si chiama più abecedario, però i bambini e i ragazzi chiedono ugualmente il vestitino nuovo, ma anche lo zaino di marca, quindi il corredo scolastico di moda. Insomma, quest'anno i genitori che tipo di sacrifici dovranno fare per un inizio di anno scolastico all'insegna della serenità economica, naturalmente? Ma intanto il povero Geppetto di sacrifici ne faceva e c'era però un investimento complessivo, una scelta che considerava molto importante l'andare a scuola. Quindi partiamo da questo, è effettivamente assolutamente importante che tutto il paese comprenda il grande valore dell'istruzione della scuola. Dovremmo investire tutti molto di più in questo e davvero forse l'economia ripartirebbe. A parte il nostro Geppetto e Pinocchio, effettivamente le famiglie stanno facendo sacrifici. Mettiamo nelle spese scolastiche l'aumento dei trasporti, per esempio, quindi chi ha figli alle superiori deve pagare abbonamenti, autobus e così via. Mettiamo gli aumenti complessivi e poi c'è tutto il tema del libro di testo che avete già citato, dove anche i dati che abbiamo noi, molte email, molte segnalazioni, ci dicono che nonostante il blocco operato, cioè proposto dalle normative per 5 anni delle adozioni, essendoci state molti cambi nella normativa e così via, i libri devono essere acquistati spesso nuovi, il mercato dell'usato è in freno proprio perché ci sono nuove edizioni e così via. Forse quello è proprio l'aspetto che un po' di più indispettisce le famiglie, no? Sì, sicuramente. Aggiungiamo anche che il Ministero virtuosamente ogni anno indica un tetto di spesa massimo, qualche dato, non so, in una prima media non si dovrebbe spendere più di 294 euro per acquistare i libri nuovi. In una prima superiore, prendiamo un liceo classico, sono 335. Però questi tetti vengono anche bypassati spesso, quindi è opportuno segnalare al Ministero o alle associazioni genitori, noi raccogliamo le scuole in cui vengono sforati i tetti, e poi c'è un po' il gioco dei libri cosiddetti consigliati, che in realtà si sa che sono obbligatori. Non abbiamo peraltro aperto la parentesi sul tema al quale invece avevamo dedicato un'apposita trasmissione lo scorso anno, dei contributi scolastici volontari, Guarneri. Certamente, lei giustamente lo cita, le tasse di iscrizione sono minime nel nostro paese, al limite potrebbero essere leggermente alzate, ma comunque sono minime, ma quasi tutte le scuole ormai, per riuscire a sopravvivere, chiedono alle famiglie un contributo, che la legge dice essere un contributo volontario, quindi detraibile peraltro nella misura del 20% delle proprie tasse. E invece molto spesso si scopre essere obbligatorio e addirittura può pregiudicare, se non viene versato, l'iscrizione a scuola. In molte scuole, parlo di quella dei miei figli, risultava fino allo scorso anno, poi ovviamente il Presidente Nazionale dell'AGE si è dato un po' da fare, risultava come quota di iscrizione. In realtà è contributo volontario, ripeto, detraibile, purché sia versato in modo tracciabile o con bonifico, con vaglia eccetera eccetera, con la specifica dicitura contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa o l'edilizia scolastica, l'innovazione tecnologica, e quindi detraibile ai sensi della legge. Benissimo, per modo di dire. Allora, diciamo che tutti questi aspetti che noi affrontiamo, speriamo che non turbino in ogni caso la serenità dei ragazzi che si apprestano a vivere magari delle avventure completamente nuove. C'è chi ha chiuso la parentesi della scuola media per andare alla scuola superiore, per cui è davvero una esperienza incredibile che si prospetta per quello che riguarda la loro vita, però insomma per le famiglie non ci si riesce molto anche a valorizzare questo aspetto, visto che invece si deve mettere mano al portafoglio. Allora, in che misura si deve mettere mano al portafoglio? Cominciamo con il corredo scolastico, poi affronteremo in maniera più approfondita magari nella seconda parte l'aspetto libri. Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicapromo, lo abbiamo invitato anche altre volte a Salva Danaio. Questo è un motore di ricerca scritto con tutte K, ricordiamolo per chi poi lo andasse a cercare su internet, 3K, è un motore di ricerca delle offerte dei supermercati. Quest'anno Clicaprom ha fatto un'intesa con Adiconsum, una grande organizzazione dei consumatori, per monitorare le offerte della grande distribuzione relativamente proprio al corredo scolastico. Allora, cosa avete scoperto? Cosa succede nelle grandi città italiane? Allora, l'indagine condotta con Adiconsum ha permesso di stimare un prezzo medio di un corredo scolastico completo, che va dallo zaino al diario fino alle matite o agli evidenziatori, ai quaderni e alle gomme, che è di circa 110 euro, un po' su tutte le città italiane. Devo dire che in questo le offerte della grande distribuzione permettono di abbattere sensibilmente i prezzi e di portarli a un livello basso su tutto il territorio. Questo è un caso medio. Poi in realtà, andando a pescare le offerte migliori del giorno, per esempio anche oggi a Milano o a Roma, si può stare addirittura sotto i 60 euro per comprare tutti questi articoli. Mi preme sottolineare che non si tratta di articoli di seconda scelta o di fare compromessi. Ma direi che ormai la qualità dei prodotti è abbastanza uniforme, diciamo, forse la differenza la fa proprio la grif, no? Esatto, esatto. Però per esempio, parlando di zaino, di diario, che sono due articoli su cui i bambini in genere sono molto attenti, anche ad avere lo zaino di ultima moda o di marca, si parla di prodotti di marca, quindi senza compromessi o senza dover scontentare nessuno. E questo appunto permette quindi di salvare anche sul corredo scolastico, oltre che, come siamo abituati con le offerte sui prodotti alimentari o per la casa, di salvare i portafogli e di tenere in tasca un risparmio consistente. Certo, possiamo fare qualche nome e cognome di qualche grande insegna della grande distribuzione particolarmente virtuosa, così magari se uno ce l'ha sotto casa e non ci ha pensato perché magari si vuole rivolgere alla cartoleria di fiducia. Adesso qua i cartolai stamattina mi sgrideranno, speriamo di no, poi ognuno può fare le scelte che vuole. naturalmente, però anche le cartolerie per la verità si sono attrezzate. Non abbiamo dei monitoraggi, ma qualche associazione dei consumatori in realtà è andata a verificare anche che cosa succede nel negozio di fiducia. Certo, Mazzoni. Ma per esempio su matite, penne e pennarelli, le offerte migliori che noi abbiamo rilevato oggi qui a Milano sono da Esselunga con i prodotti di marchio Pelican, quindi come dicevo prima una marca molto nota, molto nota, in sconto a percentuali consistenti. O su gomme evidenziatori, un altro esempio, Ocean con Faber-Castell, quindi sempre una marca rinomata. Mi preme sottolineare, magari anticipando un po' il tema successivo, che anche sui libri scolastici, attraverso il meccanismo di prenotazione presso i supermercati, è possibile spesso risparmiare dal 15 al 20%. Certo, mi dà l'assist Mazzone per sentire allora qual è stato l'esito e il risultato dell'inchiesta condotta invece da Altro Consumo. La spesa a settembre per le famiglie spesso supera i 300 euro. Altro Consumo ha condotto un monitoraggio sempre nell'ambito della grande distribuzione per scoprire quanto si spende, si può spendere e si può risparmiare anche per i testi scolastici. Io saluto e ringrazio di nuovo Lucia Canzi, esperta inchieste per Altro Consumo. Allora, come l'avete condotto questo monitoraggio e cosa avete scoperto? Ma dunque noi tutti gli anni ci occupiamo del problema dei libri scolastici. Vorrei innanzitutto puntualizzare che i 300 euro sono proprio la base, nel senso che a quei 300 euro bisogna sommare i vocabolari, i libri di narrativa, come si diceva prima, i libri in realtà consigliati, cioè in teoria consigliati ma di fatto da comprare, e gli eventuali sforamenti dal tetto stabilito dal Ministero. Quindi è solo una base, 300 euro di solito sono ben di più. Come risparmiare? Risparmiare si può innanzitutto, come si è appena detto, andando presso la grande distribuzione. Molte catene danno la possibilità di acquistare, di prenotare anche online tra l'altro i libri scolastici, di andarli a ritirare presso il punto vendita. Gli sconti vanno dal 15 al 20%, possono essere riservati ai soci, ai detentori di carta fedeltà, oppure essere tanto aperti le carte a tutti. Ce le abbiamo tutti quanti, quindi non è una cosa da fare, esatto, che ci spaventa. Non è certo quello un problema. E a volte sono dati invece sotto forma di buoni spesa, quindi da spendere presso il punto vendita, altre volte invece veri e propri sconti alla cassa, quindi poi le tipologie variano un po', però l'entità è quella. È notevole, insomma, se è consistente. Allora, ritorneremo su tutto questo anche fra qualche istante. Una battuta devo farla fare anche a Daniele Grassucci di scuola.net. C'è un'ascoltatrice che su Facebook ci scrive, non posso ascoltare la diretta, circa, parla della sua spesa, 630 euro di libri, esclusi dizionari di greco-latino per due figli alla scuola dell'obbligo, uno in prima media e l'altro in prima superiore. Al liceo c'è anche il libro di educazione fisica, 20 euro, ma serve per il quinquennio. Nell'era di internet, con i figli nativi, con i figli nati, come dire, proprio sotto il profilo digitale, sotto il cappello digitale, mi pare anacronistico. Grassucci, Daniele, che ne pensi? Sembrerebbe anacronistico, in realtà molti vedono nel digitale la scappatoia, però noi, ecco, quest'anno abbiamo condotto un'inchiesta che stiamo appunto per diramare da qui a qualche ora. Abbiamo scoperto che in realtà il digitale non permette dei risparmi così significativi, quindi ecco, poi se avremo tempo approfondiremo. Assolutamente, grazie per avercelo anticipato, anche perché bisogna comprare innanzitutto il supporto, no? Quindi la tablet, ecco. E poi dopo bisogna vedere se anche i testi suggeriti dalla scuola sono, come dire, pronti per andare sul digitale. Sì, abbiamo scoperto delle cose molto interessanti, come sempre in Italia ci sono delle normative ma non vengono rispettate, e soprattutto effettivamente non c'è un risparmio così significativo come prometteva il ministro Profumo, che a suo dire appunto si poteva arrivare a spendere anche un decimo di quanto si spende attualmente. Invece noi abbiamo scoperto che purtroppo oggi con i testi digitali il risparmio è molto meno significativo, stiamo parlando massimo 15 o 20%. Allora, diciamo che il vantaggio che possiamo individuare nella trasformazione digitale dei libri di testo e nella, come dire, salvaguardia del portamento dei nostri figli, che quantomeno hanno un po' meno peso sulle spalle, se proprio una cosa positiva vogliamo vederla. Poi andremo però ai dolori del portafoglio di mamma e papà. Tu che sai tutto? Lo sai che mio babbo è affogato in mezzo al mare? No, il tuo babbo è salvo e al sicuro, e dipende solo da te di farlo tornare tra noi. E come? Beh, se mi ascolterai, se sarai buono, obbediente, se andrai a scuola. A scuola no! E come fai a diventare un bambino istruito per bene se non vai a scuola? Non ti ricordi più che il tuo povero babbo si vendette persino la casacca per comprarti l'abecedario? Ti ricordi? Eh sì, insomma, oggi ci è piaciuto riprendere Pinocchio. Non siamo a questa condizione, quella di vendere una giacca o qualcosa di prezioso in casa per permettere ai ragazzi di andare a scuola, ma i sacrifici che le famiglie fanno sono davvero tanti. Io volevo leggere un messaggio, poi commentarlo con i miei ospiti di stamattina. Sono un operaio, 1.800 euro al mese, mia moglie circa 700, un mutuo di 800 euro, ho tre figli, 12, 8, 4 anni. Il comune di Firenze, dove abito, questa è la testimonianza di Giorgio, ha messo a disposizione dei fondi per l'aiuto alle famiglie, ma con il mio reddito ISEE di 10.500 euro non ne ho diritto. Mi dite quanto poveri si deve essere per poter essere aiutati? Volevo coinvolgere Davide Guarneri, presidente dell'Associazione Italiana Genitori, su questo. Effettivamente qualche volta, anche magari un po' chiedendo presso l'amministrazione comunale, forse qualche contributo lo si riesce ad avere, anche se adesso anche le casse dei comuni non è che siano molto floride. Guarneri. Sì, certamente, poi non apriamo il capitolo relativo alle ingiustizie che l'ISEE talvolta comporta. Pensiamo alle famiglie numerose che alla fine risultano avere un reddito superiore ISEE ad altre famiglie o addirittura ai single. A parte questo, ci sono poche sussistenze ormai da parte delle amministrazioni locali. Alcune regioni hanno introdotto le cosiddette doti scuola, buoni scuola, e possono essere un aiuto. C'è ancora qualche aiuto dal privato, sto pensando ad alcune nostre associazioni che fanno per esempio il libro, mercato del libro usato, utilizzando fondi di fondazioni bancarie e così via per le famiglie più in difficoltà, però davvero siamo al fondo del barile purtroppo che si sta raschiando. Allora vorrei sentire un paio di testimonianze e poi ritorno a Daniele Grassucci per i libri in formato digitale. Domenico da Bologna, buongiorno, papà di tre figli. Buongiorno. Buongiorno, come si presenta questo settembre, Domenico? Ma il settembre è sempre abbastanza carico, a parte il piccolo che va all'elementare, quindi i libri sono gratuiti, però la cancelleria e quant'altro sono sempre abbastanza carichi. Cerchiamo di comprare, diciamo, il necessario, ecco, non è che tutto deve essere ricomprato. Io il grande sta andando all'università, il medio fa la scuola superiore. Insomma, li ha quindi dilazionati bene tra l'uno e l'altro. Sì, sì. Li ha distanziati bene. Quindi diciamo, io voglio rilevare che c'è poco aiuto anche in fase di detrazione di queste spese dal reddito quando si fa la dichiarazione dei redditi. Ecco, io posso dirle per esperienza diretta, visto che mia moglie è francese, che ho un cognato che ha tre figli come me e in agosto ha ricevuto un aiuto dallo Stato per i tre figli di 1.050 euro. Guardi Domenico, questa è una grandissima battaglia di Guarneri dell'Associazione dei Genitori, sì, e ce la rammenta sempre quando facciamo questa trasmissione, per cui ecco, dalle famiglie un richiamo a chi se ne dovrebbe occupare, anche a permettere una detrazione fiscale un po' più consistente di tutte le spese per la manutenzione ordinaria delle famiglie. Grazie Domenico, vado rapidamente ad Angelo dalla provincia di Chieti, poi rifaccio un giro tra gli ospiti di stamattina. Angelo. Sì, salve, buongiorno. Sì. Niente, io ho due bambini, uno entra proprio quest'anno alle medie e l'altra, la prima, esce invece dalle medie. Pensavo, immaginavo, speravo che almeno potessi un attimino anche recuperare qualche libro, e quindi anche perché essendoci due anni di differenza tra la prima e il secondo, invece no, mi sono ritrovato con libri quasi tutti cambiati, quindi tutti nuovi, e quindi una spesa sicuramente non preventivata. E quanto le costa 500... questo scherzo, Angelo, quest'anno? Allora, la prima siamo sulle 350 euro e il piccolo che entra alle medie sono 160 euro soltanto di libri. Certo, senza, dopodiché c'è tutto il resto, ovviamente. Vocabolari e tutto il resto, insomma. è tutto quello che servirà. Insomma. Angelo, auguri per tutto e soprattutto appunto per i suoi due ragazzi e bambini. Allora, Daniele Grassucci, scuola.net, ritorniamo appunto a questa così prospettiva di digitalizzare tutti i libri che servono a scuola dei nostri ragazzi. Allora, siamo in ritardo, stamattina ne parlava anche Gianluca Nicoletti a Melog su questo aspetto, ma in ogni caso, anche se l'intero corredo di libri che servisse appunto per la scuola che abbiamo scelto per i nostri ragazzi potesse essere completamente digitalizzato, a parte il risparmio di peso di cui guadagnerebbero le spalle dei nostri ragazzi, diciamo il portafoglio non ne beneficerebbe più di tanto. Come siete arrivati a questa conclusione? Beh, ci siamo messi nei panni di una famiglia, quindi siamo andati a vedere, a consultare sul sito degli editori italiani la lista delle adozioni di alcune classi campione, circa un centinaio, e insieme appunto ai libri adottati c'è anche il prezzo di copertina, quindi abbiamo fatto una somma del prezzo di copertina, abbiamo verificato la spesa totale e poi per ogni testo abbiamo verificato l'esistenza o meno della versione digitale oppure della versione mista, e abbiamo scoperto innanzitutto che non tutti i libri sono disponibili in forma digitale o in forma mista, invece per norma dovrebbe essere così, anzi questa norma ha permesso anche di fare una deroga al blocco delle adozioni, cioè da quest'anno è stato possibile appunto cambiare le adozioni qualora i libri adottati precedentemente non fossero a norma, perché appunto da quest'anno appunto deve partire l'era digitale, il Ministero ci punta tanto e quindi tutti i libri devono essere disponibili in forma digitale oppure mista. E poi ecco, siamo andati a verificare laddove fosse presente il libro digitale effettivamente quale fosse il risparmio, ci siamo accorti che per ogni testo in realtà si vanno a risparmiare pochi euro, ad esempio un libro di versioni di greco che in cartaceo costa 15 euro, nella versione digitale ne costa circa 12, quindi stiamo parlando di un risparmio di 3 euro. A fronte però di numerose limitazioni, perché quando si acquista l'ebook, e questo va sottolineato, si acquista una licenza di consultazione, non si acquista il testo, quindi ad esempio molti di questi libri hanno una durata limitata, si possono consultare ad esempio per 1, 2, 3 anni, 5 anni, non si possono cedere a terzi. Quindi una sorta di affitto quasi per la consultazione, e quindi quasi che alla fine conviene comprare di più il libro, quantomeno te lo tieni, non lo so. No, ma più che altro magari si può anche sperare di riavere qualche euro indietro dal mercato dell'usato. Invece ecco, acquistando l'ebook si vanno incontro a tutta una serie di limitazioni che però ecco poi non vengono giustificate dal risparmio, stiamo parlando appunto di pochi euro a pezzo, quindi magari in una classe in cui si dovrebbero spendere 408 euro, in questa classe il tetto ministeriale è di 230 euro, quindi c'è uno sforamento del tetto e questo è un discorso, insomma si vanno a risparmiare con tutti i libri digitali circa 60 euro, ovvero il 14%. Allora io stamattina peraltro non vorrei neanche suscitare la rabbia e così un po' le contestazioni da parte dell'organizzazione dell'editoria scolastica, noi naturalmente ci stiamo ponendo dal punto di vista delle famiglie, però ci suscita qualche perplessità la questione che affrontava anche l'ascoltatore in precedenza, volevo per un attimo ricoinvolgere Davide Guarneri dell'associazione genitori, due figli a distanza molto ravvicinata, uno che intraprende le medie appena lasciate dall'altro, non è in grado di utilizzare nessuno dei libri utilizzati appunto dal fratello più grande, e credo che questa sia una situazione piuttosto ricorrente nella scuola italiana. Guarneri, mi sente? Abbiamo anche noi molte segnalazioni in proposito, appunto nuove edizioni che in realtà sono solo piccoli spostamenti di capitoli o lievissime integrazioni. È da far osservare comunque che nel frattempo sono anche cambiate indicazioni nazionali da parte del Ministero, la riforma Gelmini per le secondarie e così via, quindi ha introdotto la necessità di nuovi libri di testo. Vorrei segnalare, visto con la parola, alcune esperienze virtuose anche che ci sono, a parte appunto il tentativo di organizzare i mercati del libro usato. In Puglia mi risulta che ci sia una rete di docenti che fanno book in progress, cioè online, organizzano e gestiscono materiali, quindi non facendo acquistare. Forse li abbiamo anche invitati negli anni passati, vero? Mi pare di sì. Secondo dato, per esempio, una scuola in Emilia che stampa il diario scolastico. Ecco, una piccola cosa, alla fine anche per i ragazzi fa tendenza comunque, perché tutti sono insomma all'interno di un dinamismo, ecco, abbastanza unitario. Oppure l'uso di biblioteche scolastiche che andrebbero molto di più utilizzate, utilizzando di meno quindi il libro tradizionale da acquistare nella certo. famiglia. Anche una diversa didattica aiuta a risparmiare, meno libro di testo e più ricerca, più laboratorio, Guarneri segnalava le esperienze di città virtuose. Luciano Mazzone, Clicca Pro, ma abbiamo parlato prima per quello che riguarda il corredo scolastico all'insegna del risparmio, parlando di Milano, naturalmente siccome noi siamo qua ci viene sempre facile focalizzare l'attenzione sulla nostra città, ma in realtà andiamo un po' a curiosare anche a Roma o in altre grandi province che cosa succede, dove si può risparmiare, in che modo e fino a quanto. Allora, le cifre sono abbastanza simili a quelle che dicevo di Milano, chiaramente cambiano le insegne di riferimento, ad esempio su Roma per quanto riguarda zaini, astucci, penne, gomme, quaderni, l'offerta migliore che noi abbiamo rilevato oggi tramite il nostro sito e insieme ad Adiconsum è l'ipermercato Panorama. La cifra complessiva del corredo con le migliori offerte del momento è sempre intorno ai 60 euro. Se posso permettermi di dare un suggerimento aggiuntivo su come risparmiare è il seguente: adesso è il momento dell'ondata di offerte sul corredo scolastico, ma in realtà le offerte ci sono tutto l'anno, basta investire un minimo di tempo e noi facciamo questo di servizio per cercarle e si possono trovare continuativamente. Quindi l'indicazione è quella di non farsi attirare troppo o di non riempirsi la casa adesso pensando che poi siamo proprio nell'alta stagione del consumo per il corredo scolastico e il libro, quindi quantomeno prenderla un po', tanto lo sappiamo se nostro figlio andrà a scuola o meno, magari non sappiamo bene quale sarà l'elenco dei libri che la scuola suggerirà, però per esempio tra aprile e maggio dell'anno precedente si può cominciare a comprare quaderni, esatto, libri e penne. Esattamente. Suggerimenti di buonsenso come quelli che ci rivolgono molti ascoltatori, vabbè, qua la polemica è sempre la stessa di tutti quelli che scrivono, vabbè, i genitori si lamentano per quanto costa il corredo scolastico o tutta la serie di libri che devono essere acquistati, poi magari gli stessi ragazzi si permette di utilizzare senza alcun limite il telefonino e quant'altro. Vabbè, io lascio da parte questi commenti, qua poi ne va chiaramente dell'educazione che ognuno decide di impartire ai propri figli all'interno del proprio ménage familiare. Ricominciamo con Mariangela dalla provincia di Treviso, una nonna di 4 nipoti. Mariangela, buongiorno. Buongiorno. Io sono una nonna di 70 anni, però fino a 60 ho insegnato tedesco alle superiori, cioè ho una certa, come dire, abitudine a osservare e a controllare. I miei 4 nipoti li ho abbastanza seguiti, 2 in particolare. Ho fatto un'analisi dei libri. I ragazzi hanno frequentato 3 scuole medie differenti in diversi posti, ma il numero dei libri oscillava tra 28 e 31. Il peso non li ho pesati, ma erano veramente una quintalata di libri. Poi a fine d'anno io controllo e ho visto quanto sono stati usati questi libri. È una cosa penosa, ma tra un fratello e una sorella che si potevano passare libero perché in quella scuola i libri restavano uguali, però c'erano gli esercizi e per quando si dicesse scrivi gli esercizi a matita senza pesare, inevitabilmente il fratellino minore si trovava gli esercizi già fatti. Lì basterebbe un eserciziario a parte e i libri potrebbero passare. I miei nipoti avevano un libro di scienze di cavalli Sforza, bellissimo, magnifico, però io prima di spiegare loro, prima me lo andavo a studiare io perché non era affatto facile. Ma al di là di questo, cioè, ci deve essere qualcosa. Io per mio lavoro frequento la Germania, ma lì io ho dei libri di scuole tedesche e sulla prima pagina ci sono i vari nomi dei ragazzi che l'hanno adoperato, che si passano. Io ho fatto questa proposta nel mio paese, che è anche gemellato con un paese tedesco, e le mamme, i igieniste, hanno detto per carità, è l'igiene dove la mettiamo. Non so come facciano a sopravvivere i tedeschi, per la verità. Vabbè, con tutti questi microbi che si passano i ragazzi tra un libro e un altro. Mariangela, anche lì siamo sempre nell'ordine del buonsenso, no? Qua abbiamo sempre i problemi un po' all'italiana. La ringrazio per la sua testimonianza e soprattutto per la sua grande così, disponibilità nei confronti dei suoi nipoti. Non è da tutti i nonni che magari preferiscono passare con loro il tempo libero, invece lei si è presa cura anche della loro istruzione, controllando addirittura a fine anno scolastico quanto e come fossero stati utilizzati i libri di testo suggeriti ed acquistati all'inizio dell'anno. E a proposito sempre di insegnanti, sentiamo un po' l'esperienza di Michele da Bergamo. Michele. Buongiorno, buongiorno. Io sono un insegnante di scuola media. Io ho provato nell'ottica anche del risparmio, essendo anche genitore di tre bambini, lo scorso anno a costruire con i ragazzi un libro di scienze molto interattivo, con una didattica. Il book in progress, cambiata. Come sì. Esatto, di fatto però mi sono trovato nell'impossibilità quest'anno di non dover adottare di dover adottare un libro. Ho dovuto per forza scegliere uno dei libri proposti dalle varie case editrici, un libro di scienze. Io, come diceva questa nonna, lo utilizzo davvero poco il libro, perché le scienze, l'ambito sperimentale è molto pratico e molto poco teorico, almeno nel mio approccio. Però di fatto non sono riuscito a non adottare un libro perché la diligenza, la normativa mi imponevano una scelta di adozione. Dicevano che per le elementari era forse possibile questa cosa, ma per noi delle medie non, no. E mi sembra davvero un controsenso questo aspetto. Michele, grazie molte. Volevo commentare questi casi con Daniele Grassucci di scuola.net. Sicuramente sono dei casi molto, molto interessanti, perché l'esperienza di Book in Progress a mio avviso è un'esperienza che andrebbe sostenuta, perché appunto si cerca di far risparmiare le famiglie, perché si paga di meno sostanzialmente. Cioè, è un lavorone per gli insegnanti comunque, questo sì, va riconosciuto. C'è una passione dietro, cioè è la parte migliore della nostra scuola che molto spesso non viene valorizzata. È proprio questo secondo me il problema del nostro sistema scolastico. Abbiamo delle punte di eccellenza, delle scuole che funzionano molto bene, dei professori che fanno molto bene il loro lavoro, però poi ecco, non c'è un sistema del merito che vada a premiare queste esperienze. Quindi abbiamo una scuola a macchia di leopardo, qualità molto elevata in alcuni distretti, in alcune classi, e qualità invece molto bassa in altrove. Quindi ecco, lo sforzo, secondo me la grande sfida che ci attende è di rendere l'alta qualità che è presente in alcune realtà uno standard. Quindi anche nel caso di Book in Progress, prendere questa esperienza, allargarla, ampliarla, perché effettivamente qui si potrebbero avere i risparmi che poi vengono promessi e che sono possibili con il digitale. Ci sono altri genitori che ci stanno scrivendo tantissimi messaggi sulle strategie, passatemi il termine, che hanno utilizzato per poter risparmiare su corredo scolastico ed altro. Addirittura Cesare da Torino ci racconta che ha preso per le sue figlie due zaini di ottima qualità, uno a 10 euro, l'altro in un negozio di merci fallimentare. Anche lì siamo sempre alle solite, bisogna anche perdere un po' di tempo per fare queste scelte economiche. Guarneri, che ne pensa? Comunque bisogna fare il genitore a 360 gradi, no? Non solamente dedicarsi in due giornate al corredo scolastico, ed era un po' anche l'indicazione che ci dava prima Mazzone di Clicca Promo, prenderla un po' per tempo. Beh, questo certamente. Aggiungo anche essere presenti a scuola. Per esempio i consigli di istituto, i consigli di circolo hanno l'obbligo di vagliare il rispetto dei tetti di spesa. Si potrebbe chiedere alle scuole di anticipare le richieste rispetto al materiale didattico, anziché fornirle ai primi di settembre, come spesso accade, poterle dare già a maggio, in modo che abbiamo... Invece l'elenco dei libri quanto lo si conosce con anticipo, Guarneri? Io proprio non ho figli, quindi non ho idea. L'adozione dei libri di testo usualmente avviene, anzi c'è una circolare ogni anno, entro la fine di maggio. Quindi l'elenco dei libri potrebbe già essere noto nel mese di giugno. Poi di fatto bisogna vedere l'esito degli scrutini, perché se un figlio cambia classe, sezione, eccetera, eccetera. Però indicativamente potremmo già avere ai primissimi giorni di giugno l'elenco dei libri. Ecco. Comunque dicevo, soprattutto ritengo fondamentale la collaborazione tra la scuola e la famiglia su questo. Molte volte con il buon senso, che in più interventi abbiamo richiamato, si possono davvero operare fortissimi risparmi. Allora sentirei Laura da Brescia per concludere tra gli ascoltatori, e poi un rapido giro anche tra gli ospiti, se ce la faccio. Laura, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, grazie, mi aiuti a dare anche questa sponda ai cartolai, perché altrimenti poi mi ritroverò la mail intasata di protesta perché ho favorito pare la grande distribuzione questa mattina. Non è così, naturalmente. Laura, no, ci dica. Io comunque non faccio la cartolaia, ecco. Semplicemente volevo così consigliare alle mamme magari attente come consumatrici che fanno la spesa al supermercato, lo zaino al supermercato, l'astuccio. Però come me inesperte, mamme attente ma nei consumi, ma inesperte, io lo scorso anno ho iscritto il figlio alla prima elementare e scoprì poi che comunque tantissimo materiale scolastico di cancelleria è molto più conveniente in cartoleria, innanzitutto perché la qualità a parità di costo è spesso migliore e poi c'è un minore spreco, è inutile comprare il pacco di matite colorate con dentro 5 tipi di rosso quando in realtà i bambini, soprattutto i primi anni, usano un unico rosso. La cartolaia rende anche le matite. Siamo sempre alle solite, Laura, devono guidarci delle regole di buon senso nelle scelte di questo tipo. Allora, rapidissimo giro di saluti prima di salutarci definitivamente per la chiusura della trasmissione. Luciano Mazzone aveva altre indicazioni di buon senso, pur come me, non essendo un papà, non siamo genitori, però qualche cosa la possiamo dire. Due cose al volo, riprendendo quanto si diceva adesso, noi pubblichiamo i prezzi delle catene di supermercati, nulla toglie di consultarli sul sito, scendere nella cartoleria sotto casa e confrontarli e vedere cosa sia più conveniente. È una cosa che fa arrabbiare tantissimo i negozianti. Accettiamo la sfida volentieri. E la seconda cosa è un tipico cruccio, è la merendina o il pasto per i bambini a scuola. Anche su questo il nostro consiglio, potendolo fare, è di comprare qualcosa in offerta, cucinarlo a casa e metterlo nella... La merenda Davide Guarneri ce la siamo dimenticata, ma anche lì la pausa c'è per i ragazzi, per cui anche quell'aspetto è un altro costicino da sostenere per la famiglia. Adesso magari sarà piccolo rispetto a tutto il bilancio, però, perché non è che si va con il pollo arrosto per la pausa, però anche quella c'è, Guarneri. Certamente è anche un momento importante la pausa, meglio non avere le merendine, questo per gli aspetti di salute, sarebbe meglio la frutta. Ci sono anche qui esperienze, per esempio con Coldiretti e così via, di distribuzione di frutta nelle scuole, è un altro capitolo molto interessante che dovremmo aprire. Insomma, allora magari colgo questo suggerimento, magari ci dedicheremo ad una puntata su questo argomento. Lucia Canzi, l'ho abbandonata un po' con altro consumo, c'è qualche aspetto che ci è sfuggito relativamente al libro scolastico acquistato nella grande distribuzione, gli sconti che si possono trovare qui? No, certamente abbiamo detto più o meno tutto sul discorso della grande distribuzione. È vero che ci sono anche librerie che fanno sconti, quindi diamo un aiuto anche ai librai oltre che ai cartolai, come abbiamo appena fatto. Un consiglio è non toccare i libri finché non si va a scuola. Se si cambia prof, può darsi che alcune volte richiedano, se possibile, cambiare libro. Quindi per evitare di aggiungere la lista dei libri inutilizzati è meglio tenerlo in tonso, diciamo, in modo tale eventualmente da poterlo restituire eventualmente. Benissimo, visto che fino alla fine abbiamo potuto individuare suggerimenti molto pratici per tutte le famiglie. Allora, io ringrazio Luciano Mazzone di Clicca Promo Tutte K, 3K, ricordiamocelo.it, Daniele Grassucci di scuola.net, Lucia Canzi di Altro Consumo, Davide Guarneri dell'Associazione Genitori, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Matteo Comes in assistenza tecnica. Oggi finalmente sono riuscita a ringraziare tutti. Salva Danaio torna domani, buona giornata.